Gianni violento. Salvata dalle elemosine. Primo dicembre. Passai una notte veramente brutta. Il vecchio Gianni rimase qui a lungo e faceva paura. Domandai se aveva sparato lui a mio nonno allora. Nota. Il nonno di Eugenia si chiamava Carlo Eugenio Ervino I, 1798 a 1879, era sposato con Sofia Teresa Skumbon Bukeim, più 1876. Il quadro del nonno è appeso nel salone. Ciò lo fece inferocire. Prima che riuscissi a difendermi fece un balzo su di me e mi prese per il collo con tanta forza che credetti di soffocare. Fu solo un istante, ma fu spaventoso e rimasi completamente sconvolta. Non dimenticherò mai quegli occhi beluini. Ogni volta che uno spirito mi tocca o mi colpisce, tre volte finora, io provo piuttosto una sensazione di disgusto che di dolore, oppure se dovessi accarezzare un rospo o un serpente. Nota. Questa violenza è un mistero della cattiveria che l'uomo porta con sé attraverso la sua morte. Poiché in vita volle il male, ora deve trascinarsi appresso tutta la bruttezza e l'orrore delle sue azioni, anche se non vuole. Da questa apparizione si può capire e spiegarci perché i pagani avevano un'immensa paura dei morti e li cacciavano via dai luoghi dove erano vissuti con fracasso e maschere. Il concetto, rumore pagano e timore panico è rimasto a noi non capito fino ad oggi. Tutto questo non lo si può descrivere. 2 dicembre. Egli rimase da me dalle 2 alle 6, ed era così impertinente, che a malapena riuscii a difendertisi. Gli misi davanti la reliquia di Santa Croce, allora emise un urlo e si rifugiò in un angolo, dove rimase accovacciato come un cane che ringhia rabbioso. Fu una cosa molto penosa, io desideravo tanto che venisse Caterina. La domenica si poté veder di nuovo il cavaliere assistere a tutta la Santa Messa solenne. Ho visto gli 11, che per me sono un vero indovinello. 3 dicembre. Da prima venne Gianni, poi Caterina. Io le domandai, non lo puoi vedere nemmeno adesso quell'altro spirito? Lei, no. Io, perché non lo puoi vedere? Lei, questa cerchia è superata per me. Io, per favore, dimmi se è uno spirito cattivo? Lei, salvalo. Ho pregato a lungo con lui. Gianni stette quieto, era tuttavia sempre ripugnante. 4 dicembre. Al mattino un'ombra mi precedette, su per le scale e poi in camera mia, ma, quando entrai non c'era più niente. Gianni venne di nuovo la notte, ho pregato con lui, cosa che gli è del tutto indifferente. Mi fa sempre una strana impressione il fatto che da principio i fantasmi sono sempre così scuri in volto. Il viso si fa più chiaro solo quando possono parlare. 5 dicembre. È venuta soltanto Caterina. Io? Puoi pregare per me? Lei? Sì, io? Vorresti pregare che le povere anime non venissero più da me? Perché così potrei avere ancora la mia pace? Lei, no. Io, perché? Lei, è volere di Dio. Ora non ci devono più essere, perché? E non devo più pensare a me stessa, perché quelle parole mi colpirono come un ordine di Dio. Allora lei mostrai la reliquia di Santa Croce e le chiesi. Conosci questa? Lei, sì. Che cosa è? Lei, santo. 6 dicembre. La nuova ombra di nuovo sulla scala, assomiglia agli 11, forse è una di loro. Gianni qui quasi tutta la notte. La reliquia della Santa Croce è la mia difesa, Allora non mi viene più così vicino. 7 dicembre. La mia cara Caterina resta a lungo. Io? Ma dimmi perché sei dovuta restare tanto in purgatorio? Hai creato proprio tanto male con la tua lingua? Lei? Sì, senza confessarmi, senza pentirmi. Io? Ma allora come fosti salvata? Lei? Elemosine. Io? Perché sei morta senza sacramenti? Lei? Annegata. Io? Che cosa posso fare ancora per te? Lei mi sussurra nuovamente qualche cosa all'orecchio. Partecipazione al corpo di Cristo. Ma non posso affermarlo con sicurezza. Di sicuro ho capito soltanto partecipazione a Cristo. Poi andò via. Subito dopo venne Gianni, sempre il medesimo. Io riesco a fare sempre così poco per lui, sono sempre divisa, e il poco che posso offrire non basta per due. Mi accorsi che ora non mi spavento più, se succede qualche cosa, posso vedere anche al buio, però alla luce è più comodo per me. 8 dicembre. Gianni sembrava una belva. Egli si gettò sul pavimento. Io mi sono raccomandata alla Madonna. Allora si quietò un pochino. Ma queste mie preghiere sono molto distratte, solo un pregare con le labbra perché tutto il mio essere e il mio pensiero sono rivolti al fantasma, che per la paura che mi mette non perdo mai di vista. Alle 3 di notte se ne andò, ma ritornò alle 5. Io dissi, vattene via, che voglio andare in chiesa, colà posso pregare meglio per te. Allora emise un urlo pauroso. Io ripresi a pregare per lui, e lui ha incominciato a singhiozzare tanto amaramente, che io gli volli dire qualche cosa di amichevole, una parola amica. Così gli dissi, io ti ringrazio ancora, perché tu spesso mi hai procurato delle piccole gioie, quando ero bambina, ed io non l'ho dimenticato. Ma dimmi come ti posso venire in aiuto, che lo faccio volentieri. Mi ero ricordata che quando ero piccola egli mi passava spesso delle prugne oltre la staccionata e così glielo ricordai. Egli come risposta fece come un suono gorgogliante e mi porse la mano. Io la presi, era caldissima. Allora il suo viso si fece più amabile, se si può dire così, perché è pur sempre ancora molto ripugnante. Io dissi, adesso va via, che devo andare in chiesa, ed egli se ne andò. Ora penso che la nostra amicizia sia incominciata, perché appena gli mostrai un po' di amore invece che paura, diventò più buono. Gli 11 mi stavano aspettando ai piedi del monte, visti vicini alla neve, essi sono molto scuri.